Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata, ultima puntata della settimana. Allora, come vi avevo già anticipato nei giorni scorsi, ripristiniamo anche le buone abitudini che ci hanno accompagnato per tutto il 2009 e oggi ricominciamo i nostri appuntamenti del venerdì in collaborazione con i colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore. Perché abbiamo deciso oggi, tra l'altro, a maggior forza, a maggior ragione rispetto alle ultime settimane, di ritornare a questo appuntamento? Perché domani Plus 24 pubblica un'anteprima molto importante, il bilancio sui rendimenti ottenuti dai fondi comuni di investimento italiani nel 2009. Perché è un'inchiesta interessante? Perché emergono dei dati inediti, per certi versi inaspettati. Intanto, dopo tre anni abbondanti di sofferenza, l'industria del risparmio gestito, possiamo dirlo, sta cominciando a rialzare la testa, ha ripreso a risalire la china, sia in base ai recenti dati sulla raccolta, ma anche a giudicare dei risultati. Quasi la metà, infatti, dei fondi analizzati da Plus 24 ha battuto i benchmark, i parametri di riferimento. Poi, per chi non è esperto ovviamente di questo settore, spiegheremo anche che cosa significa. Chiaramente la forza dei mercati azionari dell'ultimo anno ha aiutato non poco, in particolare quei gestori di fondi che appartengono a questo comparto. Più delicata invece la situazione di chi ha dovuto battere il mercato obbligazionario, perché occorre davvero cominciare a rischiare su aree che almeno negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, permettevano di spuntare rendimenti più allettanti. Senza dimenticare che i bond di Stato se la sono dovuta vedere anche con le obbligazioni societarie, che dopo il fallimento di Lehman Brothers hanno avuto un momento terribile, poi hanno riscoperto improvvisamente un incredibile smalto e un notevole favore fra gli investitori. Allora, per parlare di tutto questo, stamattina abbiamo intanto chiamato l'autore della storia di copertina di Plus 24, il collega Gianfranco Ursino. Gianfranco, bentornato da noi. Buongiorno a tutti. E poi due dei migliori gestori dello scorso anno, Carlo De Vanna, gestore di Fondersell Italia. De Vanna, buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie di essere presente con noi questa mattina, insieme ad Elisabetta Villa, gestore obbligazionario di Anima SGR. Villa, buongiorno. Buongiorno. Ovviamente l'opportunità per gli ascoltatori di intervenire in diretta c'è sempre ed è un'opportunità che potete sfruttare chiamandoci all'800 24 00 24, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. Allora, l'anno interessante dei fondi comuni di investimento, inizio d'anno invece, come sapete bene, ben scoppiettante per la borsa, che sta continuando a correre anche stamattina, particolarmente Piazza Affari e particolarmente a Parigi, stanno mettendo a segno rialzi di oltre mezzo punto percentuale. Un po' più prudente Francoforte, più 0,35, Londra invece sta muovendosi sulla parità. Riflettori della giornata puntati sugli Stati Uniti. Alle 14.30 avremo il nuovo dato sull'occupazione americana di dicembre, quindi sul tasso di disoccupazione, che dovrebbe essere ancora attestato intorno al 10%, ma secondo gli analisti i licenziamenti e quindi le perdite di posti di lavoro in dicembre dovrebbero essere in una cifra percentuale, come dire, in una cifra ragionevole, quindi non tanto preoccupante. Si parla di 10.000 unità, ma insomma vedremo cosa succederà a quest'ora, quando poi questo dato, come si sa, batte le attese del mercato. È un dato che fa schizzare mediamente i listini azionari, lo sapremo però solamente nel pomeriggio. Altre indicazioni interessanti stamattina sono arrivate da Tokyo, perché il mercato giapponese ha toccato livello più alto da 15 mesi e questo anche ha aiutato stamattina l'Europa a correre. Andiamo a dare un'occhiata a Piazza Affari. Ieri i dettagli sulla ricapitalizzazione di Piazza Cordusio, che parte lunedì sull'aumento di capitale, dettagli che continuano a trovare il favore del mercato. Noi tra l'altro ci andremo su questo argomento con una puntata mercoledì prossimo a Salva Danaio, quindi ve lo ricordo già, ve lo anticipo già. E il titolo, dicevo, sta continuando a correre, anche in questo momento il migliore di Piazza Affari, più 2,72%, segue Italcementi. Il gruppo si sta rafforzando in Asia, sta per lanciare un'obbligazione da 700 milioni, tanto che di questo argomento parliamo anche questa mattina. Titolo in rialzo del 2%. Luxottica più 2, Monte dei Paschi più 1,83, Impregilo più 1,58, Mediolanum più 1,39. Cos'altro guardiamo stamattina? Guardiamo Intesa San Paolo, che ha fatto sapere che accelera sul progetto di quotazione di Fideuram. Titolo in rialzo dello 0,32%. E poi in discesa A2A, bocciata da Morgan Stanley, perde lo 0,7%, abbiamo un calo di mezzo punto anche per la Popolare di Milano e per Mediaset. Euro su dollaro a 1,43, anzi a 1,43 secchi, 1,4299 il rapporto di cambio in questo momento. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Ecco il primo bilancio dell'anno sull'industria del risparmio gestito in Italia nel 2009. Dopo due anni di rosso, il risparmio gestito inizia a manifestare segnali di recupero. I primi dati positivi per il comparto, reduce da anni neri sul fronte della raccolta, con quasi 200 miliardi di deflussi nel solo 2008, si erano già intravisti con i dati relativi al terzo trimestre. E la fine dell'anno sembra aver confermato questo trend. Ma non solo. Il 43% dei fondi comuni di diritto italiano ha archiviato il 2009 mettendo a segno una performance migliore del proprio benchmark di riferimento. Vale a dire che hanno fatto meglio del parametro scelto dai gestori, che indica in quali settori opera il fondo e che consente ai clienti di valutare i rischi e le opportunità dell'investimento. Le ragioni? Le condizioni economiche eccezionali dei mercati, con tassi ai minimi e liquidità in eccesso, hanno sicuramente favorito la ripresa del settore, in particolare di determinate categorie, quali i fondi obbligazionari e appunto i monetari. Comparti che in passato avevano raggiunto a fatica la doppia cifra. È ancora presto però per capire se il risultato del 2009 sia stato soltanto un fuoco di paglia o viceversa l'inizio di un trend destinato a durare. 800 24 0024, il numero verde a vostra disposizione. Vedo già, siete veramente incredibili, perché non c'è mai una tendenza univoca da parte degli ascoltatori quando vengono invitati a farci le domande. Magari qualche volta aspettano di ascoltare un po' la trasmissione e poi così si invogliano a telefonare. Stamattina invece hanno appena dato l'argomento, si sono già scatenati al centralino. Gianfranco, segno che molti forse non hanno fatto un bilancio in casa propria di quello che è successo al proprio fondo di investimento, aspettano la statistica di domani del Sole 24 Ore. Allora, nel 2009, così si intitolerà pressappoco l'inchiesta, non ho ancora l'anteprima formale e ufficiale e non la chiedo neanche a Gianfranco per non metterlo in difficoltà, però i fondi italiani che hanno superato quella che tu definisci l'asticella sono il 43%. Cosa vuol dire? Vuol dire che la gran parte dei fondi naturalmente ancora fa fatica a superare questa asticella, però del benchmark, che è il parametro di riferimento per valutare l'operato del gestore. E questo che cos'è? Sono nient'altro che degli indici, degli indicatori, no? Che permettono al cliente di valutare la bontà della gestione del proprio gestore, sostanzialmente. Naturalmente è un indicatore che permette anche di valutare il profilo di rischio del prodotto, perché naturalmente uno può valutare ex ante qual è la tipologia di gestione che il gestore andrà ad attuare sul prodotto. E rispetto agli anni scorsi, la novità di quest'anno è proprio quella che abbiamo un dato che è molto superiore rispetto a quelli che abbiamo rilevato dal 2000 ad oggi, da quando è stato introdotto l'obbligo per il gestore di confrontarsi con il benchmark. Se pensiamo che negli anni scorsi la percentuale di fondi che si riuscivano a superare questa fatidica asticella del benchmark era dal 9, andava al 23%, quest'anno invece abbiamo un 43% che è dovuto, questa risalita diciamo di tale percentuale, per un miglioramento in tutte le categorie, degli azionari e bilanciati, ma soprattutto il dato è quello sugli obbligazionari e i fondi di liquidità. I fondi di liquidità e i fondi obbligazionari, che negli anni scorsi erano quelli che soffrivano di più il confronto con il benchmark, perché dobbiamo pensare soltanto che, soltanto senza andare tanto indietro nel tempo, soltanto nel 2008 e nel 2007 non c'era nessun fondo di liquidità che riusciva a battere il benchmark. Quest'anno invece ben il 75% dei fondi di liquidità, i fondi cosiddetti monetari, quindi sono riusciti, obbligazioni a brevissimo termine, che dovrebbero investire soltanto in obbligazioni a brevissimo termine, nell'arco di 3-6 mesi e non andare oltre, invece vediamo che sono riusciti a fare meglio del loro benchmark. Certo, questo, voglio dire, i benchmark avevano dei rendimenti anche abbastanza contenuti, quindi sono sempre scelte rischiose. Proprio perché hanno questi rendimenti contenuti, naturalmente era l'aggravio dei costi di gestione, no? Certo. Che pesano sui fondi, che facevano sempre andare sotto il gestore rispetto in questo confronto. Quest'anno invece i gestori sono riusciti a dare un valore aggiunto anche su queste tipologie di prodotti dove è difficile effettivamente. Infatti. Beh, però ritengo che anche nel settore azionario sia difficile battere benchmark in una fase di mercato in cui comunque avviene tutto in maniera positiva, tutto sta andando molto bene, prestazioni eccellenti degli indici, quindi fare ancora meglio di quelli, comunque anche per il settore obbligazionario ritengo sia, o azionario ritengo sia stata una scommessa interessante. Azionario naturalmente è più facile, perché naturalmente con la volatilità determinate scelte che il gestore fa possono essere più o meno premianti. E d'altronde è pagato per fare questo mestiere. Esattamente, perché altrimenti uno si compra l'ETF. Esattamente, quante volte abbiamo fatto questo discorso. Quindi in sostanza questo è il punto della situazione. Allora, visto che abbiamo deciso di interpellarli, cominciamo un po' a sentirli come hanno agito in questo 2009 difficilissimo per certi versi, perché anche se la borsa è andata molto bene, batterla ovviamente significava anche intraprendere scelte ulteriormente coraggiose, e poi nel settore obbligazionario abbiamo sentito quello che è successo, allora sentiamoli questi gestori. Cominciamo con Elisabetta Villa, gestore obbligazionario di Anima SGR. In questa classifica stilata dal Sole 24 Ore credo che sia il miglior fondo per quello che riguarda i titoli governativi a medio lungo termine. Il delta quindi ha fatto meglio del benchmark, qualcosa come per il 12%. Adesso non so se ho letto bene questa tabella, Gianfranco, poi magari ci ritorniamo sulla questione del delta rispetto al parametro di riferimento. Elisabetta Villa, qual è stata la ricetta del 2009? Innanzitutto una premessa, cioè i rendimenti che si sono visti nel 2009 sono rendimenti veramente enormi, e ovviamente replicarli per il settore, non certo per il mio fondo nel 2010 sarà sicuramente difficile, visti anche i tassi, come dicevamo prima, che si vedono adesso sul mercato. La ricetta è stata quella, come dicevate, di intraprendere anche scelte pesanti, forse coraggiose, che non dipendono solo dal gestore, dipendono anche da scelte dell'azienda, quindi laddove si sono aperte delle opportunità che prima non c'erano, abbiamo cercato di cavalcare insomma l'onda che si presentava sul mercato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando le obbligazioni societarie, ad esempio, sembravano tutti strumenti del demonio, ecco, cioè destinate al fallimento, comunque a continuare a scendere e basta, abbiamo cominciato a costruire un portafoglio di titoli societari gradualmente, ovviamente, come meglio fare in queste circostanze, perché i minimi del mercato purtroppo nessuno sa quando arrivano, e diciamo prima ci siamo così concentrati sui titoli nell'occhio del ciclone, cioè i finanziari di primarie emissioni di banche primarie prevalentemente europee, e poi piano piano abbiamo scelto anche altri titoli che insomma in determinati momenti venivano contagiati da questo panico che si è visto soprattutto fine anno scorso. Infatti, perché ricordiamo peraltro, mi scusi Villa se la interrompo, prego, che lo scorso anno, visto che le banche non riuscivano a reperire denaro per portare avanti la propria attività in nessun modo, cioè le banche non si prestavano denaro tra di loro e c'erano tanti altri problemi, hanno dovuto fare delle operazioni straordinarie sul capitale, esattamente come quella che parte su Unicredit peraltro la settimana prossima. E quindi insomma banche, finanziarie, titoli rischiosi, qual è stato il momento peggiore dello scorso anno, Villa? Qual è stato il momento del demonio, marzo, come l'ha definito? Sicuramente il mese di marzo sembrava che soprattutto determinati strumenti obbligazionari fossero destinati a raggiungere lo zero molto velocemente. Sto parlando dei cosiddetti subordinati bancari, i titoli più junior, meno sicuri, che pareva fossero per qualsiasi emittente destinati ad andare a zero qualora questi emittenti fossero stati nazionalizzati. Ecco, anche lì, anche qui c'è stata una scelta di investire diversificando molto, quindi non su un unico nome, non su un'unica area geografica, anche su questo tipo di strumenti, e questo è stato un altro dei punti di forza dell'obbligazionario. Poi ritorniamo con lei su questo giardinetto di cui ci parlava, quello che avete cominciato a costruire lo scorso anno, per capire se avrà le medesime caratteristiche anche quest'anno. Credo di no, perché andiamo incontro ad un anno che avrà nuovi scossoni probabilmente anche in termini positivi. L'economia sta cominciando a riprendere, proprio in virtù di questo bisogna probabilmente anche razionalizzare di nuovo il portafoglio, ma avete sentito le scelte scelte di Elisabetta Villa, e questo lo voglio raccomandare, sono state scelte coraggiose e audaci, molto rischiose lo scorso anno, per cui lasciate fare queste scelte all'investitore professionale e non avventuratevi anche in un mercato che, anche se quello obbligazionario lo ritenete sempre tutti molto sicuro, ha i suoi rischi, e appunto Villa ci ricordava quello che è accaduto un anno fa. Andiamo adesso, ci manca per la verità 40 secondi di tempo prima della prima pausa, però volevo anche dare il benvenuto di nuovo a Carlo De Vanna, gestore di Fondercell Italia, il miglior fondo azionario Italia dello scorso anno, un fondo che punta soprattutto sulle piccole e sulle medie imprese. Chiedo anche a lei la sua ricetta dello scorso anno: bastava andare al traino del mercato? De Vanna, che cosa ci avete messo di più? Direi che l'anno scorso è stato esemplare come esempio delle tre leve che il gestore può utilizzare per creare valore, quindi il peso dell'azionariato, quindi dell'investimento, le scelte settoriali e come terza lo stock picking all'interno del settore, con una prevalenza per l'anno scorso sul secondo aspetto. Quindi quello che probabilmente ha fatto un po' la differenza è stato il timing di entrata e di uscita dai singoli settori, quindi la volatilità del mercato è stata ampia, in particolare è stata veramente eccezionale la volatilità tra settori. La volatilità banche complica ovviamente la vita e il lavoro di un gestore. Complica la vita nel senso che rende molto ovviamente più difficile guardare a lungo periodo, ovviamente, però può essere un'opportunità eccezionale per creare valore, ovviamente. Certo. E qui ritorniamo un po' a rafforzare anche il messaggio della scelta di investimento giusta nel momento giusto, il cosiddetto stop picking, un concetto del quale non parlavamo da un sacco di tempo, e allora magari da questo ripartiamo nella seconda parte di Salva Danaio. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Sono già pronti Vittorio da Monza, Andrea da Verona. Vi chiedo pochissimi istanti di pazienza. Salva Danaio. Siamo ritornati in diretta questa mattina, siamo ritornati a collaborare con i colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore, che domani, come storia di copertina, propongono il bilancio sui rendimenti ottenuti dai fondi comuni di investimento nel 2009. Come sapete, un'industria che ha vissuto una crisi pesantissima negli ultimi 3 anni, tutti i risparmiatori praticamente sono scappati, preferendo comprare in banca o dal proprio intermediario polizze, obbligazioni strutturate, obbligazioni bancarie. Adesso invece, a quanto pare, questa industria sta ritornando a fare raccolte e soprattutto a fare risultati, perché sono andati molto bene, quasi tutti i fondi appartenenti ad ogni categoria lo scorso anno ha portato a casa risultati positivi. Che è stato facile per il settore azionario, visto che tutte le borse hanno corso parecchio, certamente un discorso più delicato invece è quello del mercato obbligazionario. Io sentirei un ascoltatore che ancora sull'obbligazionario ci fa tornare, poi per Elisabetta Villa, gestore obbligazionario di Anima SGR, c'è anche una considerazione da parte del collega del Sole 24 Ore Gianfranco Ursino. Andrea, buongiorno, le faccio inaugurare le chiamate di oggi. Buongiorno. La domanda, grazie per la opportunità, la domanda secca per la signora Villa: come vede le prospettive di quest'anno, visti i livelli ormai molto alti delle quotazioni delle obbligazioni e soprattutto sull'obbligazione a lungo termine? Grazie. Grazie Andrea. Allora, tra l'altro ci ha rubato un po' di lavoro, era il terreno sulla quale volevamo spostare Elisabetta Villa progressivamente nel corso di Salva Danaio, ma accontentiamo subito gli ascoltatori, perché chiaramente, siccome anche ieri Villa li abbiamo invitati a fare il tagliando di inizio anno dei propri investimenti, giustamente loro lo fanno e quindi vogliono sapere cosa ne pensate, cosa potrà accadere sul mercato di riferimento appunto per le obbligazioni quest'anno. Cominciamo subito, io poi la voglio pungolare anche sulla Grecia, perché abbiamo questo campanello d'allarme che non si è mica ancora sopito. Prego. Innanzitutto, obbligazioni governative a lungo termine, quindi parliamo area euro. Le dico cosa stiamo facendo sui nostri fondi e perché per adesso la duration per noi è ancora molto bassa, cioè i tassi a questo punto sono veramente a livelli minimi e che cosa si osserva sul fronte macroeconomico? Una ripresa del ciclo più o meno ovunque, quindi al di là del fatto che è sempre difficile fare previsioni, quindi dare un livello di tassi, certo, che si potrà raggiungere nel futuro, quello che ci diciamo noi è che le obbligazioni a lungo termine offrono oggi uno scarso valore, soprattutto governative, soprattutto anche per quel discorso che facevamo, cioè che stava introducendo lei, cioè dei deficit e dei debiti che gli stati, per salvare il sistema finanziario e economico, stanno accumulando e avranno da gestire nei prossimi anni, per cui io direi un po' di cautela e non non andiamo ad esporci troppo sulle parti lunghe delle curve governative. Gianfranco, volevi chiedere tu ad Elisabetta Villa? Sì, per collegarci un po' al discorso, mentre per quanto riguarda i titoli corporate, no? Titoli corporate di società, cioè, quindi le obbligazioni messe dalle società, soprattutto entità bancarie, che avete messo in portafoglio via nel corso dell'anno, ma non solo nel corso dell'anno, penso, perché voi vi contraddistinguete per il fatto di fare effettivamente delle scelte forti nel corso degli anni, in quanto nelle classifiche che puntualmente facciamo ogni anno vengono fuori sempre i fondi anima per sia in positivo che in negativo. Per esempio lo stesso fondo obbligazionario euro di cui parlavamo prima, no? Che nel 2009 risulta il migliore in assoluto tra i fondi obbligazionari, lo scorso anno, come anche nel 2005, era quello invece che veniva fuori in coda alla classifica, in quanto queste scelte di inserire all'interno di un portafoglio che viene dichiarato perlomeno dalla categoria di appartenenza come che investe su obbligazioni a medio governative a medio lungo termine, dopodiché inserire all'interno di questi prodotti delle scelte su titoli corporate o altre tipologie di rischi, giocando anche sulla duration, cioè sulla curva dei tassi di interesse, cioè a breve, a lungo termine, come poi cercherà di spiegarci meglio la dottoressa gestore, e a volte, voglio dire, può risultare penalizzante, sì, ma sgradevole. Cioè vedere per esempio un cliente che mi investe in un obbligazionario governativo a medio lungo termine può non digerire facilmente un segno meno come l'anno scorso, intorno almeno 4-5% per un fondo obbligazionario che dovrebbe investire in titoli governativi. Com'è che viene poi giustificato questo segno meno al cliente quando... Certo, Villa se la sente, sì. Sì, sì, assolutamente, ci mancherebbe. Ricordiamoci anche una cosa, il 2008 non ci limita al peggio ovviamente, però abbiamo visto fallire Lehman, abbiamo visto sull'orlo del fallimento banche come Citigroup e via dicendo, per cui la situazione che abbiamo osservato sia sul fronte così dei finanziari e della situazione veramente di crisi e di volatilità e di tensione sui mercati è una situazione che spero di vedere poche volte, ecco, magari anche mai più, ecco. E anche mai più. Per cui è ovvio che là si sono aperte delle opportunità che come gestore attivo, cioè che si fa pagare per le scelte di investimento che fa, non potevamo non cogliere e non potevamo non cominciare a costruire un portafoglio su quelle attività finanziarie che ci sembravano presentare valore allora. È ovvio, come dicevo prima, purtroppo il minimo, non so quale sarà ex ante, per cui io devo professionalmente, diversificando con gradualità, andare a comprare delle obbligazioni che secondo me sono un buon investimento per i miei sottoscrittori. Poi se domani fallisce Lehman è ovvio che il segno meno sul fondo obbligazionario, ma anche sui fondi monetari, perché anche dei fondi monetari hanno avuto dei segni meno nel 2008, si può vedere. Non è bello, non è, come dire, tranquillizzante per un sottoscrittore, però il fatto stesso che io abbia fatto delle scelte convinte e che poi le abbia portate avanti, perché quello è anche il punto, cioè non farsi travolgere dall'emotività che magari invece un investitore non professionale può avere, le abbia portate avanti, vuol dire che poi il rendimento sul fondo sia avuto, un rendimento su un anno, quindi non su 10 anni. Sicuramente. Un rendimento meno che 4. Per un fondo medio-lungo termine si può tollerare. È ovvio che il drawdown, cioè la perdita nel periodo più grave, quindi fine 2008, marzo 2009, era assolutamente ingestibile, dice lei. E sicuramente il meno 4 dell'anno scorso è ripagato dal più 17% di quest'anno. E poi anche alla luce anche dei risultati degli anni precedenti, nel 2005, 2006, 2007, il fondo si è sempre contraddistinto per questa politica di gestione. A questo punto mi chiedo, perché non cambiare categoria, cioè non autodefinirsi, diciamo autoclassificarsi in un obbligazionario governativo medio termine, ma come un obbligazionario flessibile oppure corporate, non lo so. La sta proprio stamattina mettendo a ferro e fuoco, Ursino. Questa può essere un'idea. Diciamo che quello che contraddistingue Anima è la chiarezza, per cui i nostri sottoscrittori sanno che comprano Anima obbligazionario, che Anima obbligazionario è un fondo attivo, che Anima obbligazionario può, perché può, andare ad investire. Ma per esempio, in un governativo medio-lungo termine, quanta percentuale di corporate può esserci? Guardi, noi, secondo la categoria di assogestioni? Massimo 30%. 30, poi si può andare 35, però insomma 30%. È ovvio che questi limiti vanno come dire, testati in determinati momenti di mercato. Ritornando alla domanda iniziale, quanto c'è al momento e quanto ci sarà per il 2010 di corporate? Guardi, noi per adesso siamo al 27%, è ovvio che il mix è cambiato, quindi la composizione del fondo è passata da titoli, come dicevo prima, molto bassi nella struttura di capitale, come i subordinati bancari, a titoli via via più senior, abbiamo alleggerito determinate posizioni, come cambierà? Villa, guardi, ce lo dica dopo, perché sennò Carlo De Vanna penserà che l'abbiamo invitato per scherzo, così la lascio respirare anche per un attimo. Per De Vanna, per Fondersele non hai niente nel tuo cappello, nel tuo cilindro, Gianfranco. Adesso gli facciamo inventare qualcosa. No, però mi interessava naturalmente anche il criterio di gestione del mercato azionario. Questo è un fondo, questo Azionario Italia, appunto, che è stato il migliore dello scorso anno, che, come ci diceva De Vanna, ha una politica che si è aggregata lo scorso anno, appunto, fondamentalmente ai settori, quindi è stato trainato anche nei risultati dei settori che andavano meglio. Poi all'interno del settore si fanno le scelte evidentemente societarie. Questo è un fondo che punta per l'appunto sulle piccole e medie imprese, De Vanna. Piccole e medie imprese che, adesso a prescindere da quelle quotate, mediamente nel nostro paese negli ultimi due anni hanno avuto grosse difficoltà. Quindi mi chiedo quali sono quelle che vi hanno dato maggiori soddisfazioni. Quindi, andando un po' più nel dettaglio dei settori che lei citava, quali vi hanno aiutato proprio ad ottenere migliori risultati? Allora, magari non è così intuitivo per chi non quotidianamente non ha a che fare con le nostre piccole aziende. Vale la pena di sottolinearlo. In Italia le piccole aziende in realtà sono delle multinazionali. Moltissime aziende con capitalizzazione piccola hanno fatturati che in maniera importante dipendono dall'estero. Quindi sono le nostre multinazionali. Al contrario, magari le grandi aziende italiane di quasi tutti i settori hanno una componente italiana preponderante. Quindi quando pensiamo alle piccole aziende non pensiamo alle aziende con pochi dipendenti e un fatturato locale. Sono aziende che vendono in tutto il mondo e quindi sono più dipendenti ancora delle grandi dal ciclo economico globale. In questo senso direi che diventa ancora più importante un discorso di stock picking, che è stato sempre sul fondo small cap il driver fondamentale. Mm-hmm. Diciamo che l'anno scorso è stato un anno eccezionale in questo senso, perché appunto vista la volatilità settoriale che c'è stata, la maggior parte delle opportunità derivava dalle variazioni repentine e spesso assolutamente imprevedibili. Legati a eventi macro piuttosto che news flow da parte dei governi, eccetera. Di solito comunque il settore small cap si muove su specifiche storie, quindi lo stock picking è sempre preponderante. Lo stock picking, dato per tradurre ai nostri ascoltatori, è proprio la scelta della società, il momento esatto in cui entrare in questa società, giusto? Adesso l'ho detta proprio in maniera un po' banale, però Conoscere la storia, capire quali sono i driver, quali sono i fattori che influenzano l'andamento di una società in positivo o in negativo, per scegliere quando entrare e a quale prezzo c'è un upside che compensi il rischio anche legato spesso ad un'azienda piccolina. Quindi proprio il settore non ce lo vuole dire, De Vanna? Sì, il più bello dello scorso anno, quello che le ha fatto dormire i sonni più sereni. Probabilmente sono due i settori che l'anno scorso si sono comportati in maniera abbastanza costante. Il settore delle utility e il settore delle infrastrutture. Quindi tra le infrastrutture, varie Impregilo, Astaldi, eccetera, e le utility, tanto le società di produzione di energia, quindi le municipalizzate. Ma Impregilo non è molto una small cap? Una piccola capitalizzazione. Nell'ottica del mercato, diciamo che è al confine tra una mid cap e una large cap, però rientra ancora tra le società medio-piccole. Poi a livello globale non c'è da discutere, è sicuramente un'azienda mediamente. Sì, no, adesso piccola. Non voglio assolutamente poi commentare il singolo titolo, perché altrimenti ovviamente, sappiamo bene che i nostri ascoltatori si scatenano e qua mi raccomando sempre su questo punto, indicazioni su singole storie non ne diamo, era solamente una curiosità proprio per una questione di capitalizzazione. No, peraltro pensavo, se vi hanno già dato così grandi soddisfazioni in questo 2009 da dimenticare per certi punti di vista, è invece molto incoraggiante per altri, per come sono andate le borse. Con la ripresa che è alla porta, magari sarà anche lenta questa ripresa economica, queste società che magari riprenderanno anche a costruire un po' in giro per il mondo, chissà anche che così che prospettive hanno. Magari su questo poi ci interessa soffermarci con lei. Dobbiamo far concludere anche la risposta, non me lo dimentico, Gianfranco, a Elisabetta Villa. E ci sono anche degli ascoltatori che sto facendo un po' congelare lì da un pochino, e allora ritorniamo insieme subito dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Eccoci qua di nuovo in diretta. Volevo salutare Sergio da Milano, che è proprio il contestatore di Salvadanaio. Ormai gli posso attribuire senza dubbio questo riconoscimento, questa coppa, perché insomma continua a lamentarsi che nelle trasmissioni non ci sia polpa, perché insomma è uno degli accaniti, vuole assolutamente il nome di qualche società su cui puntare. Sergio, se lo scordi può tranquillamente cambiare canale con noi la salutiamo molto volentieri. Cioè, tra l'altro c'è una trasmissione che ha un grande successo su Radio Rai, dove si parla esclusivamente di titoli, società quotate. Loro lì in maniera molto tranquilla danno più o meno suggerimenti di investimento, suggerimenti su quando e come è il caso di uscire o entrare in borsa. Quindi guardi, si può sicuramente accontentare anche dall'altra parte, noi non ci preoccupiamo. Allora Gianfranco, prima di ritornare ai nostri due ospiti, agli ascoltatori, ce n'è uno che ci ha scritto, un tale Andrea, alla nostra mail, che ci allega alla mail, me la sta segnalando la mia collaboratrice Gaia Romani, ci allega l'analisi del miglior fondo obbligazionario italiano nel 2009, in sostanza credo voglia avere delucidazioni su come il Sole Plus 24 elabora la classifica che poi sarà in edicola domani. Credo che sia un lavoro che viene fatto dall'ufficio studi, ma sulla base di quali dati? Sulla base dei dati, naturalmente, che gli stessi gestori diffondono. In che senso? Nel senso che dal 2000, come dicevamo prima, i gestori sono obbligati a dare un benchmark, no? Il benchmark è quindi, come dicevamo, è un indicatore per permettere al sottoscrittore di valutare, no, prima naturalmente di andare a sottoscrivere un fondo, dove andrà il gestore a investire, che ne so, in questo caso facciamo l'esempio di un fondo azionario italiano, insomma italiano, può essere uno esattamente che si rifà al principale paniere, se questo ha fatto più 10, io voglio sapere se il gestore fa più 12 o più 8. Perfetto. E quindi naturalmente sulla base di questo benchmark che il gestore si dà, e che viene approvato anche dalle autorità competenti, quindi la Consob, no, che autorizza i prospetti informativi, e questo ci permette poi di andare a valutare sulla base della performance del fondo e la performance del benchmark. Naturalmente anche lì sui benchmark nato nel 2000 questo confronto poi man mano anche si è perfezionato, perché nel 2005 poi la Consob è intervenuta dicendo che questi parametri di confronto devono tenere conto anche, che ne so, dei dividendi che i titoli sottostanti al fondo distribuiscono, certo. Quindi anche l'indice di confronto, visto che il gestore naturalmente non distribuisce quasi mai, ci sono tanti pochi fondi a distribuzione dei proventi, ma tendono ad accumulare all'interno, a reinvestire. Quindi anche gli indici, no, di confronto devono essere indici che tengono conto, cosiddetti total return, che devono tener conto quindi dei dividendi, delle cedole anche per quanto riguarda il mondo obbligazionario, no, che vengono distribuite. Certo. E quindi sempre di più si sta perfezionando. Naturalmente questi benchmark vengono nettizzati, che cosa significa? Che i fondi attualmente di diritto italiano che sono tassati alla fonte al 12,5%, quindi via via ogni giorno viene accantonato oppure da parte dei gestori 12,5%, anche lì i benchmark naturalmente vengono dai gestori nettizzati, cioè depurati da questo effetto fiscale del 12,5%, per rendere il confronto più omogeneo possibile. Naturalmente ci sono i costi, quelli invece restano, che il gestore deve cercare di recuperare, perché se un fondo obbligazionario preleva l'1%, naturalmente deve poi cercare di sopperire a questo 1% colmare, per confrontare con questo, il benchmark, certo, per colmarlo. Compensarlo. Allora, quindi speriamo di aver accontentato Andrea sulle modalità di elaborazione della classifica di Plus 24. Allora, che abbiamo in attesa da un po' Marco dalla provincia di Lucca. Marco, buongiorno. Buongiorno, io appunto volevo chiedere se il benchmark era depauperato dall'effetto fiscale o no. volevo sapere dell'effetto fiscale. Le abbiamo bruciato la domanda. Infatti, inizialmente volevo sapere se era un effetto dumping o no. Ecco. Grazie, quello. Marco. Sì. Inizialmente c'era effettivamente una diversa interpretazione da parte delle società di gestione. Dopodiché, nel 2005, come dicevo, è intervenuta proprio la Consob dicendo che tutti quanti possono nettizzarlo. E questo, vi ripeto, va a favore delle società. Comunque si confrontano con un indice di mercato a cui va sottratto un 12,5%. Dall'altra parte, però, attenzione, tutti siete obbligati a confrontarvi con un indice total return, come dicevamo prima, che tiene conto anche di dividendi e cedoli reinvestiti. Tra l'altro c'è qualche società che questo benchmark proprio non lo vuole comunicare, ah, no? Sì, quella sì, cui sì, vabbè, sì, insomma, non anticipiamo niente, domani c'è ogni anche ogni anno solleviamo proprio quei 4-5 società di gestione che si rifiutano, nonostante questa sarà anche piuttosto grandi, insomma, sì, anche piuttosto note. C'è anche, diciamo, questo qui è tutto nasce da un'indicazione da parte della società di categoria, dell'associazione di categoria, Sogestioni, che ha invitato nel 2000 le società, per dare maggior trasparenza a tutto il settore, di comunicare questi dati, cosa che però qualcuno, anche chi siede all'interno del consiglio direttivo di associazioni, non fa. Ma sai, quindi, com'è un po' per tutte le cose, se non ci sono le punizioni, se non ci sono le sanzioni per quando i comportamenti non sono corretti, le società sono... Chi vuole leggere i nomi, come anche il resto dei fondi che naturalmente in classifica nelle diverse categorie sono più premianti oppure che hanno sofferto di più confronto con il benchmark, può leggersi su Plus 24, dove domani, volevo ricordare anche che il tuo corsivetto al vetrio ogni insomma. Settimana comunque su Plus tutti i fondi di diritto italiano, ognuno può ritrovare nelle ultime pagine del tabellari di Plus 24 il confronto della performance del proprio fondo con quella del benchmark, per valutare un po' il gestore come si sta muovendo. Benissimo. Qual era la domanda che era rimasta in sospeso per Elisabetta Villa? Era per quanto riguarda le prospettive dell'anno e del mondo corporate, cioè delle obbligazioni societarie. Elisabetta Villa. Molto sinteticamente, ovviamente sul mercato c'è ancora un eccesso di liquidità, questa liquidità è nel sistema e questa liquidità deve essere investita. I tassi a breve soprattutto, ma anche a lungo termine, abbiamo detto, sono bassissimi e c'è una ricerca di rendimento che porta gli investitori professionali e non ad andare sulle obbligazioni corporate. Occorre essere selettivi, ovviamente, occorre non farsi incantare magari da rendimenti più alti, perché ovviamente il rendimento più alto è associato a un rischio più alto, quindi bisogna essere consapevoli del rischio che si va a correre, però per il momento diciamo i corporate sono ancora attraenti proprio perché forniscono questo differenziale di rendimento rispetto a quanto non si veda sui titoli governativi. Volevo sentire Carlo Dalla Spezia, che ancora io mi scuso con Carlo De Vanna, gli prometto che lo rinvito un'altra volta e magari lo spendo un po' di più in trasmissione, ma vedo gli ascoltatori che questa mattina sono assolutamente indirizzati nell'ambito obbligazionario e quindi sento anche Carlo Dalla Spezia. Carlo, rapidissimo. Buongiorno. Se ce la fa, la ringrazio molto. Buongiorno. No, io volevo fare questa considerazione, cioè nell'ultimo anno le performance dei fondi monetari obbligazionari sono state straordinarie, però bisogna anche ricordarsi che questa grande performance è dovuta al fatto che i tassi sono crollati in maniera altrettanto straordinaria. Se noi andiamo a vedere la storia dei fondi monetari obbligazionari, ci accorgeremo che quando i tassi scendono salgono e quindi sono premianti, e quando i tassi salgono e i fondi monetari obbligazionari non danno risultato o ne danno poco. Esattamente, questo è il secondo fattore. Per cui è giusto dare onore al merito ai gestori, ma non troppo, cioè non esageriamo. No, non vorremmo esagerare, questo, però certi aspetti inediti, cioè certi aspetti dirompenti della crisi dello scorso anno non ce li dimentichiamo neanche, Carlo, quindi non è che avvenisse proprio in maniera così didattica la dinamica dell'andamento dei rendimenti dei tassi lo scorso anno, quindi questo volevo precisarlo, almeno è un'opinione mia. Poi prego, concluda, poi sentiamo. Sì, di fronte a un calo dei tassi così importante era difficile non aspettarsi performance di altrettanto livello. E poi, a conforto di questo, basta vedere quello che i risultati che stanno dando gli stessi fondi negli ultimi 3 mesi, in cui c'è stata già una stasi dei tassi, per rendersi conto che la festa sta finendo. Cioè, se i tassi, come già molti cominciano a ventilare, dovessero rialzarsi anche di poco nella seconda metà dell'anno, la festa sarà proprio finita. Eventualità peraltro non daranno più niente. Sarà anche dura. Peraltro per nulla remota. Allora risentiamo ancora Elisabetta Villa. Si apre un anno di nuovo piuttosto complicato per voi, quindi la parola d'ordine della selezione sarà, come dire, quella che vi troverete scritta sulla vostra scrivania tutte le mattine a lampeggiare. Come vi muoverete l'anno prossimo? Insomma, alla luce di queste prospettive che sembrano già segnate, come diceva giustamente Carlo. Sì, per rispondere un po' a Carlo, è ovvio questo, però io ho una un'altra leva, noi gestori abbiamo un'altra leva, cioè non è quella solo dei titoli societari, è quella anche della duration, cioè di quanta sensibilità dare a questi movimenti di tasso ai fondi. Ovviamente se i tassi salgono e la duration, questo parametro, questa sensibilità è bassa, io riesco poi ad avere opportunità di investire su obbligazioni che avranno tassi più alti, per cui ben venga anche un rialzo con una duration bassa, quindi non è detto che, come dicevamo prima, la relazione sia così lineare. Dicevo prima, sono insomma del parere di tenere per il momento, proprio alla luce di quanto ha detto anche Carlo, la duration bassa, questo parametro basso, e sfruttare le opportunità e la volatilità che, come dicevamo prima, si può presentare in diversi strumenti finanziari nel nuovo anno. Per me proprio il concetto della duration è complicatissimo, non mi entrerà mai in testa. Volevo sentire un attimo Carlo De Vanna, solamente per chiedere anche a lui, alla luce di come sono andate le borse negli ultimi 8 mesi, che hanno raddoppiato comunque mediamente alcuni indici, anche il loro valore, le chiedo se anche per la borsa, non dico che la festa è finita, perché comunque ci spiegava un altro gestore qualche giorno fa, siamo ancora alla metà del valore che le borse avevano 2 anni fa, però insomma sarà un po' più prudente il rialzo dei prossimi mesi, voi confidate ancora un ulteriore rialzo, in che percentuale, insomma che prospettive ci può indicare per il settore di sua competenza? Allora, il nostro approccio in questo momento è effettivamente di una maggiore prudenza rispetto all'anno scorso, perché qui bisogna fare ovviamente delle ipotesi sull'evolversi della situazione economica. Noi non ci aspettiamo che il 2010 possa segnare uno stravolgimento dal punto di vista dei dati macro, della disoccupazione, e che addirittura ci possa essere il rischio appunto verso la fine dell'anno anche di un aumento dei tassi. Quindi la prudenza diventa la parola d'ordine, e quindi diventa nuovamente importante, torniamo alla normalità dal punto di vista del mio lavoro, ritorna importante la selezione dei titoli, quindi che poi il core business della nostra industria. Correrà un po' meno dietro alla corrente generale, dice lei? Esatto, io penso che avverrà questo. Ci saranno ovviamente ancora dei movimenti settoriali, ci saranno ovviamente ancora dei dati, spesso magari americani piuttosto che tedeschi, che influenzeranno pesantemente il mercato. Però ritengo anche che ci sarà maggiore attenzione alla selezione. Devo salutarla, come sente è arrivata la sigla, grazie molto a Carlo De Vanna, Elisabetta Villa, Gianfranco Ursino per essere stati con noi, puntata vivacissima, vi ringrazio, noi naturalmente con Salva Danaio ritorniamo lunedì, parliamo della moratoria dei mutui, a lunedì.